Chihuahua. Oh, Chihuahua. C'è nessuno su questo canale? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Nella gatta non si muove, si dice buonasera, alla radio non c'è nessuno la sera, come mai, adesso arriva l'inverno, tu si tocca la radio, cambio! Ciao Eugenio, ben sentito, buonasera! Ma come do anch'io? Guardo più allora. Ciao Eugenio, ciao Gianni. Ah, avanti, Jack, lo svelto! Ma io non ti avevo nemmeno sentito, giusto? Ho chiamato due volte, ma nessuno aveva risposto. Ciao, Eugenio! Buongiorno, Giulio, e allora, come va? Tutto a posto e niente in ordine. Va bene, Eugenio. E tu, tutto ok? Bene, le vacanze te le sei fatte? Sì, non ho gli occhi. Hai fatto bene. Gianni invece c'è la patinaria, in aereo, da un punto all'altro, vero Gianni? Buonasera Giulio, ehi vabbè, anche io già me le sono fatte le ferie, non c'è problema, e me le potrò fare ancora, perché adesso a settembre, se c'è bel tempo, me ne vado a pescare. Hai fatto bene già, beh certo che sì. No, io ho fatto un po' fuori, un po' in Sardegna, ma comunque è durato quasi un mese, dai, più o meno 25 giorni all'incirca. Alla fine mi sono stancato e sono rientrato, ho detto, boh, basta, non ho più gana di stare in giro. Per cui ho finito avanti. Io sono stato un po' di giorni a Chia, Villasimius, tutta quella zona del Cagliaritano, poi sono stato lì a Santa Teresa e sono andato anche alla Valle della Luna. Hai fatto bene. Anch'io un po' da quelle parti, dai, nell'Orizzarese, vicino a Cagliari, anche a Bosa Marina, e poi passavo i primi giorni c'ero fuori dalla Sardegna, per cui un po' così in girella, dai, a stancarmi in poche parole. Avanti oggi. Grazie a voi, adesso ho voluto per voi. Andate. La Valle della Luna, io ci ho fatto un mezzo fa la Valle della Luna già, ma giù sei sceso, dove giù? Ehi, c'erano quelli con le facce brutte che vivevano nelle grotte, sono andato dall'altra parte, che dove c'erano le persone tranquille. No, io sono stato un mese con loro, in un periodo mio psichedelico. Va bene, un bel posto. Adesso è diventato territorio dei drogati, però quello. No, lui giù, c'è una parte dove stanno tutti i figli dei fiori, i libri, eccetera, eccetera. Poi c'è una parte dove c'è gente tranquilla, capito? Vabbè, io ci sono passato comunque vicino, anche perché mi sono fermato un po', un attimo, a Siena, dunque eravamo lì vicini. Lo so, qualche annetto fa c'ero proprio lì, avevo fatto anche delle foto eccetera, anche se io non è che sia un bravo fotografo, però qualche fotografo, ma allora non c'erano, adesso invece c'è la banda dei drogati, lì sembra che siano diventati loro i palloni di quel territorio lì. Sono la roccia scavata, vivono lì, come i primi tipi. Sei mancato per un attimo il microfono, per un attimo è mancata la modulazione. Ho detto che praticamente vivono come i primitivi. Sì, come i viziosi drogati vivono, i primitivi non ne avevano di vizi assurdi come ce li hanno qui. Vabbè, dai, comunque. Quello lì è un territorio dove hanno girato parecchi film anche, lo sapevi già, perlomeno negli anni passati, non so adesso, ultimamente ne hanno fatto anche, però era una zona dove hanno girato. girato diversi film anche. Sì, lo sapevo. Vabbè, sono belle zone, c'è un'acqua che è limpida, cristallina proprio, sono delle belle zone veramente, anche Chia, Villa Simius, quelle zone lì sono bellissime lo stesso. È bella, Sardegna è tutta bella, la parte più brutta della Sardegna è sempre bella, per cui si può immaginare quello problema che c'è solo in Sardegna. Allora sì, oggi, allora hai dovuto lavorare alla grande sempre, no? E beh, è meglio così. Io sto continuando a lavorare. Oggi faccio la notte fino a domani alle 8 e poi riprendo alle 10 del mattino. Smonto alle 8 e riprendo alle 10 del mattino. Ah, ho capito, e vabbè, purtroppo quello è il tuo lavoro e lo devi fare, ma i figli non te ne aspettano, perché a te, quando è che te li prendi i figli tu? Adesso vediamo, ottobre, vediamo. E certo, questo è il momento del massimo impegno da parte tua, né? Perché questo qui, sai, con tutti gli arrivi che ci sono, vengono tutti qua, vengono a farti soffrire, a farti lavorare. Va bene, dai, avanti già. E adesso c'è il turismo, ancora. Adesso c'è il controesodo. E c'è ancora lavora, beh. È così, ma è come era da lui. Le commesse andavano in ferie anche ad agosto, a noi ce ne davano a novembre le ferie, e il periodo dei morti ci davano le ferie. Eh beh, quello sì, purtroppo quando ci sono esigenze dell'impresa, dell'azienda dove si lavora, è chiaro che il lavoratore deve sottostare e prendersi le vacanze magari in un momento meno adeguato, per così dire, che poi tutto sommato forse fatti in settembre le figlie sono anche migliori, così almeno non si soffre anche di meno per il caldo eccetera. Avanti, Luigi. Andiamo, che? Oh yeah, sembra in pensione, fra una ventina d'anni. Oh yeah, vabbè, avanti Luca. Ha detto Chihuahua. Anche Parviero, mi già una lì, già sotto il viso. E io, sembra che non ci sono, ma ci sono sempre, non c'è problema. Buonasera a tutti comunque. Ciao Claudio, un attimino che vado in bagno. Fa il centro però, no, non sbagliare, non uscire fuori dal risveglio, come si dice alla Sassa. Ciao Claudio, è a Londra, tutto a posto fuori? Tutto ok, sto facendo, assemblando un paio di plafoniere che mi hanno dato, devo metterle fuori nel carrello, come stavo assemblando, comprato il carro, come stavo assemblando, poi adesso sta piovigginando, domani ce le piattiamo. E beh, oggi tutto a posto, meglio di così non si può, grazie a Dio, tutto a posto. Radio zero, impegni tantissimi, comunque quando accendo che c'è gente già dentro a salutare. Pressione molto poco, ma almeno qualche saluto già lo faccio, va. Ma Claudio, più diventa una brutta. Guardate, se è troppo potente rimane, da allucinante. questo è il mitico 430, funziona sempre. Così avete di ganare tanto che veniva a chiamare, ma lo mandiamo sempre dal dottore e quando ritorna, già ritorna perfetto, KK. Va bene, dai, salutato io, se ci siete più tardi, perché io ho ancora cosette da fare, altrimenti non combino niente, devo mettermi a posto tutta l'attrezzatura. Ciao Eugenio, ciao Giulio, ciao Gianni e ciao, mi pare anche Lucariello, se coincide a più tardi, altrimenti alle prossimine. Salutato io, vai Giulio, ciao. Ok, Claudio, d'accordo, grazie allora per essere entrato a salutare. Buon lavoro con le plafoniere, immagino che sono a LED sicuramente, ricordati la fase all'interruttore, perché se non lampeggia da voi, o potrebbero lampeggiare, per cui buon lavoro, cosa vuoi che ti dica? Non ti posso dire altro. sono quelle, quei neon lunghi, capito? Ne ho fatto due lunghi e due corti, e devo mettere sotto praticamente in giro al carrello per illuminare tutta la notte. Sono neon. Passando i fili per fare poi i collegamenti alle prese, capito? Perché andiamo avanti senza fili, ma li ho provati uno per uno, così col filo volante sono perfetti. Va bene, dai, te passo il cambio e se ci siete, ripeto, ci vediamo fortemente alle prossime. Ciao a tutti. Ok, ho capito, dai. Sono allora lampade fluorescenti, dai. No, a neo sono quelle delle insegne, queste di strada. Si chiamano quelle lampade fluorescenti. Bene, comunque potresti mettere anche a LED, ci sono le lampade a LED, sempre adattabili in quelle plafoniere, eccetera. Una piccola modifica, ma niente di particolare, se vanno bene ugualmente. Anzi, fanno meglio, illuminano di più. Avanti, Eugenio! Ti stavo bene qua, e quando vengo con l'aereo devo avere la pista illuminata. Ciao. Tutto illuminato, la notte è tutto illuminato. Non ti preoccupare, puoi atterrare tranquillamente oggi. Ciao a tutti, buona serata, buon tutto, ciao. Ok, ciao di nuovo, alle prossime. E così, Gianni, sei rientrato? Gianni ancora non è rientrato. Avanti, Eugi. E allora, questa nave è bucata, ma non è che ti hai dovuto cambiare le gomme anche? In questo lavoro qua non capisce niente, oh mio, non vedo l'ora che settembre se ne vada, così i turisti se ne ritornano da dove sono venuti e non vedo più il riscatto, si rientra ai ritmi normali. E adesso fra un po' ci saranno i rientri, per cui poi si normalizza il lavoro, sicuramente sarà meno impegnativo. E cosa vuoi fare? D'altronde dicono che l'Italia, cioè che la Sardegna ha bisogno del turismo, lasciamo di fare. Solo che c'è questo, qui vengono a portare solamente gli surdi e basta, perché poi tutto sommato i surdi che portano non rimangono nemmeno, tanto se ne vanno nei locali dove sono i proprietari, tutti i continentali, finché si portano via gli incassi, se li portano via, qui ci rimangono solo le briccioli, ci rimangono. Comunque, va bene così, dai, ha movimentato un pochino l'economia, poco, ma anche qui in Sardegna sicuramente l'economia si è mossa un pochino, con tutto l'avvento di questa gente qua. Vabbè, comunque, buon per loro, avanti oggi. Ma che sta piovendo? Sì, stava piovendo, qui dove sono io stava piovendo, un quarto d'ora fa stava piovendo, adesso non lo so se ha smesso, ma stava piovendo, ma suppongo che stia ancora piovendo. Brecco. C'è stato un brecco, avanti. Sì, ciao Geno, buonasera, ciao Giulio, poi non ho sentito nessun altro, c'è qualche d'un altro. Lucariello, ciao Luca, anzura di Parigi, ti ho chiamato, sei in Parigi. Ciao Roberto, aumenta un pochino la radio, che ce l'hai bassa. Avanti Lucariello. Ciao Giù, dai, sono scappato un attimino, il pollo con le patate in forno. Ma sempre mettendo a mangiarsi, non mangiare più, che te lo fa fare? Dopo ti appesantisci, hai visto molto aggiovativo, ha recuperato roba di 3 o 4 o 5 kg. Vai, non mangiare più Luca, mangia solamente quando hai fame, 3 volte al giorno. Vabbè, aiuto, come sta questa radio? Non era proprio la più bassa della normale, adesso bene va. Adesso già va bene, io ti sento bene, anche poc'anzi ti sentivo, ma era basso, stavi arrivando dall'oltre tomba. Avanti oggi. Buonasera, mi hai sentito. E allora? Vabbè, amico mio, come è andato il lavoro? Riposo oggi? Devo fare la notte. la notte forte. Vediamo un po' se mi ascolta. Giulio, mi ascolti? Ciao, buonasera. Non so. Io sono entrato. Ti sento. Ma sono basso, ma ti ascolto. Ciao Luigi, salutoni. Avanti Gianni, rientrato sì. Ciao Roberto, mi hai sentito anche a te, c'ero anch'io, c'era anche Claudio, non so se ci sia ancora. Cappa, riprendi Claudio se ci sei, fai girare. Ciao Claudio ha chiuso, è entrato per salutare e ha chiuso, non so se è all'ascolto, ma ha chiuso evidentemente, ha altre cose da fare. E allora vabbè, finite le vacanze? Diciamo finite, ma è come che abbiamo fatto, non è che siamo andati molto lontano, fatto girettini così, erano più che altro in zona, dai. Non è che sono andato lontano come gli anni passati, ho capito pure anche cose da fare, forse anche più importanti, ma mi sono un po' riposato almeno, un po' rilassato, ho recuperato un po' le forze. Ok, io potevo fare una domanda a Giulio, e oggi esiste ancora un pochettino che poi tutto questo movimento si riducerà tantissimo, poi siamo di nuovo lockdown e tornare a capo, dai. No, fate gli scherzi, comunque adesso i turisti piano piano stanno rientrando e vedrai che il lavoro sarà meno pesante. Speriamo che se ne vadano, guarda, sono su già più, poi adesso stanno imbarcando, sono tutti nervosi, gente che parla male, gente che va. Ma tutti fuori ne sentiamo, per carità. Ma quante ne sono sbarcati, diciamo Gianni, comunque, quante ne sono sbarcati quest'anno in Sardegna e non è ancora conclusa la stazione, più di 8 milioni. Sì, sono tutti qua. Tutti qua. E qua è la Puglia, la Sicilia, tutti qua sono venuti. Malvenuti. Vabbè, io ho visto che c'è movimento, anche le attività stanno lavorando finalmente, sono andato in certi posti, in certi locali, ristoranti, eccetera, uno per dire non c'era posto domenica scorsa, o sabato scorso se non mi ricordo, l'altro era tutto esaurito, però è riuscito a trovarmi un posto, poi per altre genere di cose lo stesso dovevo prenotare, è diventato un po', a livello del 2018 mi hanno detto questi operatori. Alcuni per altri no, perché se dice ti stanno sempre piange la miseria, con locali sempre fini. Vabbè, facciamoli avanti Gianni, avanti Gianni. Sì, sto provando questa apparecchia a vedere come esce, là. Sta andando sempre bene. Il segnale è molto forte, 6,9 più 30 da me, e la radio è chiara forte. Questo qua questo qui è il coso, il cobra, il 2000 GT. No, da spingere parecchio, a parte il solito ecco che c'hai il vizio tu, vabbè, comunque poco a poco si serve. Quello ci vuole sempre, è una mia prerogativa. Questo è quello che non è a Giulio, che lui aveva fatto anni fa, una volta ho sentito la discussione, tu avevi messo in un baracchino, Giulio, dimmi se sbaglio, un vulcano esterno, vero? Sì, un vulcano della Elk Elettronica. L'avevo collegato al Pony, il Pony con la stazione fissa di una volta, no? L'avevo collegato, se ricordo bene, al finale all'oscillatore, mi sembra, se ricordo bene, e prendeva tutte le stazioni del mondo, radio comprese, radio normale, intendo, no? Proprio da tutte le parti del mondo. Funzionava a sintonia continua, perché c'era il WFO e dunque il baracchino era diventato una radio praticamente di ascolto mondiale in sintonia continua o Roma. Ma questo è tanti anni fa, non è certo ieri. Tu, quindi tu ci avevi anche le HF, io volevo fare il contrario, da una radio che fa le HF e fare in modo di ricevere il resto dalla banda, cioè gli 11 metri. Però beh, basta fare la radio che è troppo forte, è rimbombante. Se metto che ero troppo basso Giulio, comunque ci avevi adesso bene va. Adesso va. Ok, va bene, forse ho guardato un po' troppo la voce, no? Comunque sempre uno io lo tengo, questo qua poco fa forse era un pochino più di uno, dai. E quando ho parlato Giulio era quasi zero, non me ne sono accorto, forse per quello che non mi sentiva. Ma devo fare il lavoro al contrario, giusto? Se non gridi vabbè. È la posizione mia, io sono sempre a 50 cm dal microfono, probabilmente mi sono un po' troppo avvicinato. C'è da dire che ho cambiato sedia. Ho messo la sedia agevole un po' più alta rispetto all'altra, per cui magari sono anche un po' più vicino al microfono. Comunque così va bene? Sì, va bene, se non gridi sì. Ma come è successo che hai gridato e ha strappato un po'? Non c'è problema. Capito giù il discorso? Sì, cioè tu mi stai parlando di un WhatsApp che ti dà al contrario, in che senso al contrario? Allora, la radio ascolta le HF, però voglio che vada oltre, cioè che salga oltre le HF, cioè che vada negli 11 metri, 10 metri, eccetera. Ah, beh, questo non lo so, Robe. Io l'avevo attaccato al baracchino fuori, quello della stazione fissa, quello che una volta aveva l'orologio, eccetera. Adesso non mi ricordo che poni, forse poni 94, boh, non me lo ricordo. Insomma, quello grande che faceva TV e all'altro, faceva. Ho capito, sì, sì. Vabbè, poi con calma già se ne parla, per non monopolizzare. Avanti a te di nuovo Eugenio e poi farà girare a Luca se c'è ancora. Io ti voglio fare bene, se ci sei vai pure, io sto facendo una cosa qua. Prendo troppo, vai. Devi riprendere che sto facendo una cosa. Ehi, avanti, avanti Luca, ci sì. Elettronica, me lo ricordo come se fosse oggi. Funzionava che era una meraviglia, ripeto, prendeva qualsiasi tipo di radio, tutto, tutto e anche di più, tutte le stazioni nazionali di qualsiasi paese, e volevi parlare, volevi ascoltare Radio Mosca, tanto per fare un esempio, ascoltava Radio Mosca e così via, tutto, tutto indistintamente. Tu giravi due giorni, giravi, cosa ti posso dire, presente c'era lo spessore di una cartina di sigarette, lo giravi così, talmente così, tal poco che se giravi di più prendevi magari diverse stazioni, invece girava appena, appena prendevi, a quando fare un giro completo avevi girato tu, 10 volte i programmi del mondo avevi sentito. Sì. Ma ti segnava la frequenza, Giulio? No, la frequenza non le segnavano assolutamente. C'era un baracchino, c'era un pony o Gianni, era un pony, 23 canali. E ci avevo messo questa apparecchiatura, si chiama un VFO, era VFO della elettronica. E dunque ero riuscito ad attaccarlo al transistor oscillatore, mi sembra, adesso non mi ricordo bene, ma comunque sono passati tanti anni. E poi l'avevo dato, quando il baracchino poi che l'avevo dato, boh, forse l'avevo dato a Madonna Verde, se ricordo bene, forse l'avevo venduto a lui tempo fa, tantissimi anni fa, ma senza il WFO però gliel'avevo dato a Madonna Verde. Il WFO non mi ricordo che fine aveva fatto, boh, sono vedendo di 30 anni fa, 35 anni fa, anche di più. No, l'elettronica lo conosco bene perché avevo un trasmettitore FM per la radio, quando avevo la radio, il primo era la CTE, il secondo era della Elta Elettronica e poi vabbè l'ultimo della SDG, quello l'ultimo che ho preso, ce l'ho ancora nuovo, l'ho provato l'altro giorno a fare una prova di trasmissione, un 20 watt quello lì, quattrato, si porta una frequenza con i controversi dentro, un bello apparecchietto, bello grosso. Professionale, sta parlando di appartamento, faceva dei buoni prodotti. Sì, beh certo, perlomeno quello che avevo io l'avevo indovinato. No, io l'avevo letto, se ricordo bene, in una rivista di elettronica l'avevo letto questo, e l'avevo ordinato, mi era arrivato e in qualche maniera sono riuscito a piazzarlo e funzionava, non era meraviglia, andava molto molto molto bene. Sentivo tutto, tutto di più. Se poi si poteva mettere anche sulla carta, questo non te lo so dire, Robè. Io so solo che l'ho messo al baracchino della 27 e per cui avevo trasformato, poi se poteva funzionare anche mettendolo una radio HF, questo non lo so, Robè. No, questo già ti quando capiti già te lo spiego a voce, dai, no? Non lo voglio dire qua. Un altro, ci vuole un diverso tipo di apparato per fare certi tipi di cose. Ok, va bene. Avanti Gianni. Tu non hai capito, io poco fa ti ho chiesto se il VFO aveva il frequenzimetro, come facevi a regolarti su che frequenza è? No, era numerato già, tutto numerato, tutto attorno era numerato. Non lo so che frequenza fosse quello che trovavo, però capivo da come dire, ho passato tante di quelle ore ascoltando, la notte ho fatto tante di quelle ore piccole ascoltando, proprio guarda, soprattutto la notte sentivo che era ancora meglio, una bomba era veramente. Questo non lo so che frequenze usavo, non lo so, io giravo, c'erano dei numeri e basta, già. Ah, quello che volevo sapere. Ma pensavo che per regolarsi ci fosse un frequentimetro dove poter andare sulla frequenza che volevi, capito? Io mi ricordo un Puni, quello con l'orologio, col VFO che ce l'aveva, un CB che faceva il turbino, che abitava in quelle casette masse che ci sono al monte. E ci aveva lo stesso il Puni con le VFO. Andiamo, andiamo, certo. C'era qualcuno lì che però non mi ricordo chi era. Sì, sì, ho capito già, ma probabilmente quando stai parlando di frequenza, probabilmente magari aveva sentito me e l'aveva fatto anche lui, adesso non mi ricordo. Sì, ho capito, quelle case basse che ci sono lì a Monte Rosello, alla parte dietro la chiesa, eccetera, c'era uno appunto che aveva anche lui, il Puni, e qualcosa del genere, ma non è che è durato molto tempo in frequenza, perlomeno io, per quanto mi ricordo io. Allora di Luca. Boh, e che ora sto qua? Boh, al Monte dove? In che anno? Sì, se vuoi vedere negli anni 70, 75, 80, o Luca. Allora manco sa più cosa è un baracchino. Appunto, non gli nato giù alcuno. Figurati. Va bene. Caio, oggi, Caio, questa nata la fai partire, sì o no? Sono qua, dai. Ok, sotto il vostro. Ho finito. Ma non mi parlare di navi che mi viene guarda, veramente. Oh, la vuole strangolarmi, deve giocare. Allora, Roberto, questo cappellino l'abbiamo finito? Sì, te l'ho finito, ma non capite, se passi te lo faccio vedere, mi darai il tuo parere. Se capito, ti faccio vedere il mio e mi dai il parere tuo. Ma non capito, se capite? Se capito lì, il mio, te lo faccio vedere, così mi dai la tua opinione. Già ho visto il tuo, c'è un abbattamento, ho visto, non è un campo. Sono curioso di vedere questo sistema di condizionamento a gas, mai visto. Condizionamento a gas, cioè? Ho detto che c'è l'aria condizionata a gas. No, non c'è solo l'aria condizionata a gas. Io ti ho detto che ho il gruppo elettrogeno a gas. Che ti fa l'aria condizionata? Quando attacchi il gruppo elettrogeno mi dà 3 kW e azioni tutto. Alimenti il condizionatore, quello che sto dicendo, ti fornisce la corrente, l'energia per alimentare questo, però io non ne ho mai visto gruppi elettrogeni a gas, cioè so che esistono ma non li ho mai visti davvero. Tu no, con la bombola che cucini eccetera eccetera la utilizzi per alimentare il gruppo elettrogeno. Sì, esattamente. 1000 euro da 3 kW, 4000 euro costa quel gruppo elettrogeno. È integrato nel camper, non l'ho messo io, ce l'aveva già il camper di serie. Lo so, è una cosa molto sofisticata e molto evoluta, nel senso non è grazie a PVC, nei camper americani li trovi quella cosa lì. È tecnologia tedesca, sono avanti, diciamo che sono avanti. Io ti ripeto, avevo Laika e non era nemmeno, era fascia alta, proprio il treno su fascia alta. Questo è fascia ancora più alta, c'è un abisso veramente. E con l'ago è il tuo, no? Come? Con l'ago è il tuo. Cartago. Vabbè, ho detto sbagliato, Cartago volevo dire. Sì. No, sono una cosa spettacolare, però naturalmente ci vuole il tempo per usare quelle cose lì, non è che te ne vuoi andare tutti i rughi, quello è quando devi fare qualcosa di importante, ma se devi fare un girettino, basta anche uno piccolino. Ma ci vuole la C per quello tuo. Allora, siccome da me ci vuole la C, in Germania l'hanno matricolato 3,5 con l'estensione a 4,2. Devo fare con la B, capito? Ma hanno fatto in modo di matricolarlo a 3 B. Però l'estensione a 4,2. Ah, capito. Andava bene. Va giù. Ok. A me ne avevano proposto uno dei camper, era vecchio nel senso di vecchia costruzione, però era nuovissimo come, me lo volevano dare, poi l'anno scorso, 5.000 euro, ma dammi il vostro del camper, no, non ne voglio io, infatti non l'ho preso, però era nuovo, molto bello, intenuto veramente, era di lusso, lui lo teneva sempre lì a Pantalona, lo teneva, poi se l'ha venduto, è riuscito a venderselo, ho fatto glielo chiesto, ho fatto male, causa della pandemia, per cui non ho saputo più niente se se l'avevi comprata o meno. Ripeto, era di vecchia costruzione, però aveva parecchi anni, era un camper che io penso che avesse almeno una quindicina di anni, però se tu lo vedevi era nuovissimo, veramente tenuto molto ma molto bene, e non era nemmeno molto piccolo, era abbastanza grandetto. Allora ti va bene. Allora io quello che ho, il vecchio Lennard, che se tu lo vedi è nuovo, proprio nuovo, se lo vedi sempre fuori, è perfetto, quello lì è dell'87 addirittura, e l'altro invece è del 2002, quello che mi sono allestito io. Ma la domanda è oggi, che ci deve andare il tuo, che motorizzazione? Ma questo è un vecchio? Il nuovo che c'è? 2003 turbo diesel, nel 2003 150 cavalli. Fiat, multijet c'è? Cioè. Multijet, sì, è il Ducato multijet. Invece l'altro, Life era 3180 cavalli. Addirittura, il vecchio era più potente. Sì, ma sono rinato con questo qua. Questo consumi ridottissimi, l'altro consumava da far paura. 10 euro mi faceva quasi 50 km almeno. Ma una domanda, questo qui è 6 marce nuovo? Questo ha 6 marce, sì. Anche lei cavolo ha 6 marce. Solo riesce a dirtelo meglio, strano, e vabbè, c'è un motore più moderno, di generazione più moderna, multijet, l'altro era il jet di normale, avevi sopra me. Sì. L'altro consumato, guarda, una cosa esagerata. E adesso voglio vedere il nuovo, non ho ancora fatto la prova di consumo, non gli ho fatto quella modifica per ridurre i consumi. E questo con moto del 2005 ha sperato fa 10 km con un litro mediamente, ne puoi fare anche di più, però poi diciamo di media fa 10 km sul misto. Allora, questo qua è 2008 aspirato, motore Fiat questo, voglio vedere quanto fa, non ho ancora verificato, perché voglio fare anche prima senza modifica e poi con la modifica. Guarda, io ho fatto la prova, io ho fatto i calcoli matematici, però per andare da Nicolino alla Ciaccia, se è presente, io la casa le mettevo con l'Aica, ne mettevo 20 euro e ritornavo a riserva. Questo lo metto, calcolato, cioè sono andato a riserva, quindi se mi porto a casa. Sono andato a riserva, ho messo 20 euro, ho andato a Nicolino alla Ciaccia, è rientrato qua, la Ciaccia da Valoria, è andato a casa a riserva. Questo qua ne metto 10 euro, nonostante sia più lungo e più pesante, 10 euro, vado, torno, all'altezza di Piazza Mona, diciamo là, passati i semafori, l'altra riserva. È un motore più efficiente sicuramente. Ok, di nuovo Gianni e poi Giulio fa girare. Ti devo dire una cosa, ogni tanto stai fischiando, si sente un fischio di sottofondo. Non so da cosa dipende, forse sei troppo alto di potenza, controllo. Io non tocco mai niente, sempre così, non tocco niente. Potenza è sempre 10 watt, non ho mai toccato niente. Non lo so. Ma lo fa sempre, lo fa a volte. Avanti giù, non so se tu l'hai sentito. Vabbè, ma l'ho sentito un paio di volte, ma poi forse avevo qualche altra cosa accesa, qualche altra radio, sarà per quello. Comunque il camper è una cosa molto bella, sicuramente molto più bella della Glock, perché almeno si in un unico colpo e va bene, invece prima dovevi molchiare la Glock, era anche un pochino più difficile anche da guidare, però ne ho riparato talmente tante del Glock, mi ricordo quando rivendeva a Multinido robe che gliele facevo io, gliele facevo. Riparate anche le cabine, parete intere, fatte, quelle costruite a nuovo perché magari incidentate, per non parlare poi di tutto l'arredamento interno, eccetera. Era un bel lavoro, a me mi appassionava, tra quello e il lavoro sulle barche, ne ho fatto tantissimi per tantissimi anni, per cui mi è bastato quello, avanti va bene. Cioè mi hai detto Multinedo qui? Multinedo lì in via Mendola, c'era una rivendita di corso, di rotto. Lì è rotto, sì. E via Mendola, ma di quanti anni stai parlando? Parecchi anni fa, molti, proprio parecchi, tanti, 40 anni fa. averlo rotto, che sulle barche per almeno 40 anni, grosso modo, per cui ti puoi immaginare. E riprendeva la bottiglia di questo di Lugoso, no? degli alimentari, no? Uno con l'altro, non so se era fratello, se era parente, cosa ne so. Non lo so, Pedro, perché più o meno la famiglia la conosco, ma non ci ho mai fatto caso, in Via Mendola non è tante terra di Via Mendola. E Via Mendola, penso che sia Via Mendola quella, eh. Io in fondo, Via Napoli in fondo, quello non è Via Mendola, buca. Sì, sì, prolungamento, Via Mendola è il prolungamento di Via Napoli, dopo un certo punto diventa, dopo Via Turati diventa Via Mendola. E da lì me li portavano, me li lasciavano davanti a falegnameria e io li paravo. Vabbè, anche qualche altra officina, anche cosa me ne portava, quel meccanico che c'è anche in via San Paolo, come si chiama, oh, non me ricordo, Antonio, me ricordo di nome, anche lui me ne portava, anche lui si interessava, perché lui riprendeva lo stesso, le riparava in incidentate, e poi magari c'erano da fare dei lavori sulla di falegnameria, me li passava a me, me li passava e li facevo io lo stesso. Non mi ricordo come si chiama quell'Antonio, via San Paolo, con quell'officina, quel carrozziere che c'è, boh, non me lo ricordo. Ho capito, Tu poi, vabbè, sulla sua monopoli anche da Muruzzo facevi lavori dalle barche, ma così? Infatti facevo anche da Muruzzo, contemporaneamente facevo sia la barca che il rotto. Contemporaneamente, non c'era differenza. Facevo andavo anche fuori, anche a Cosa, anche a Palau ho fatto dei lavori sulle banche, eccetera. Non solamente a Santa, anche a Palau andavo lì, ad esempio Andrea Sicchi, non so se l'hai conosciuto, quello che vendeva una volta le macchine lancia, non so se le vende ancora, non ne so. E ho fatto lavori anche a lui. Ho capito che c'era anche a te, Rossano, tu stai dicendo. Non so come si chiama di nome, Coso. Aspetta, quello che una volta c'era le macchine lancia, non le vendevano a Roma una volta. E il figlio, al figlio, io gli facevo i lavori sulla barca e anche amici suoi della zona. E poi c'era anche il cognato, tra l'altro, lì a Palau. Ah, tu stai parlando, no, pensavo il negozio di Palau che c'era anche a Tempio, quello è santo, tu stai parlando Secchi, lancia Secchi. Lancia Secchi, lancia quello che vendeva le macchine lancia. Andrea, mi sembra che si chiamasse lui, Andrea Secchi, burro, se ricordo bene, adesso sono passati tanti anni, ma mi sembra di ricordare che si chiamasse così. Era lui. Ok, di nuovo Gianni, poi per Eugenio. Io già ce l'avevo in mente di prendere un camper, Roberto. Poi un po' la testa mi è uscito, là. E sono andato in giro così e volevo prenderlo, la verità, ma non di quelli nuovi e cose, di quelli magari che hanno un po' di anni ma che sono tenuti bene. E la motoristica mi piace più quella Fiat di quella Ford, sinceramente. Sì, ma quelli veri li avranno bene tutti. Ford sono ottimi prodotti, ma anche Fiat c'ha, come motori sono all'avanguardia, poi tutti, la maggior parte dei camper sono motorizzati tutti Fiat, c'hanno motori indistruttibili, ci sono tanti anni che costruiscono diesel, non c'è problema, anche Ford vanno bene, ci sono pregi e difetti da ogni parte, Fiat sei sicuro, ma se ci sono per qualcosa trovi più facilmente i ricambi, ma sono motori eterni perché non sono tirati, non fanno tanti giri come una vettura. Adesso il problema per le nuove c'è molta elettronica, la diretta di stare attento, infatti io quell'ultimo che ho preso l'ho preso proprio aspirato per quel motivo, se mi mettevi a scegliere, vabbè, era aspirato questo, ma se mi mette a scegliere un turbo rispetto a un aspirato, preferisco un aspirato, non per prestazione, parliamo di affidabilità, meno roba ce la rompe se è più dura il prezzo, detto da grandi esperti, non da me, da grandi meccanici, soprattutto meccanici di mare, e dicono meno c'è roba da rompere e meno problemi c'hai. E così è sulla meccanica, purtroppo adesso con l'elettronica basta un sensore, un relè, un cavetto pizzicato e quello del genere e rimane a piedi. Ok, di nuovo a te Eugenio. Sto fischiando, non so cosa sia, sto fischiando. Ma c'è qualche parlante acceso vicino? Cosa, non ho schiacciato cosa, no, non ho schiacciato niente. L'MC60 dalla radio. Cosa? Allontana l'MC60 dalla radio. se per un giro c'è e vedi che non lo fa, lontano, viene lo più lontano possibile quando stai parlando. E se non li mette quel cavetto come l'ho fatto io, quel cavetto di massa dal microfono all'apparato non lo fa sentire. Sì, cagati già. Il problema è sempre tenere il microfono MC60 a distanza e qua dalla radio. A me non mi ha mai fischiato perché oramai conosco la distanza e quindi bisogna fare così. Se lo avvicini fischia con tutto, sempre. Buonasera a tutti, sono entrato solo 5 minuti, che allora li ho già salutati poco fa per farvi sentire la radio, va bene? Non mi interessa, però dai, non va bene parlare verso, verso di noi, verso verso Sassari, hai capito che aveva fastidio. Ma non solo a Giulio, a tanti, qua c'è un segnalone allucinante, oltre, no, o 9.20, se poi mette il fischio arriva anche a 9.30, figurati, quindi. Questa è una zona molto molto alta, molto particolare, se mi metto a fare i conti è così, però no, io purtroppo conti non lascio fare, sono nato senza conti. Vi saluto, ciao a tutti, arrivederci e buon viaggio, ciao ciao, va bene, prendi. Prima sono diventato, quando è pronto il giocattolino poi vediamo da dove arriva il segnale. Infatti solo tu lo puoi scoprire, perché è veramente vergognoso, cazzo, siamo quattro gatti, io ero propenso di non mettere niente, l'ho messo giusto per non allontanarmi dalla frequenza, ma anche su Ubuntu, Brutti, perché beh. Luca, dai, ci è andato. Magari era qualcuno che non riusciva a uscire, boh, non so. Io cerco invece di pensare come è tutto, di essere, di vedere mai per errore, speriamo che lo capisca, dai. Ok, non abbiamo troppo fatto la situazione, e c'era anche Franco Pinali, avanti Franco. Sì, sì, vi stavo ascoltando, sto cucinando anch'io, un abbraccio a tutti, circolare. Capito Roberto? Comunque anche qua arriva forte, quindi non è lontano da noi. Ma a me a caso si supera? Tu sei al limite, sentivo solo doppio room, bene. E qui la zona è lì, deve essere vicino a voi, non forse. Poi arrivava a 9.25, tendente a 9.30 quando fischiava, passava tutto, l'unico Claudio che riesce a superare, poi poco a poco già nello più room. Capa. Ciao Giulio! Parla più piano, ti sta andando in distorsione di radio. Sì, perché mi sono appoggiato, ero vicino al microfono, così sono lontano, così va bene, ero sul microfono, stavo prendendo delle cose da terra che mi erano cadute e stavo parlando nel contempo, così va bene, dai. Ecco, capo, avanti, prego. Ciao Fabrizio da questa parte. Oh, ciao Fabrizio, hai sentito dopo tanto da parte mia? Riprendi Fabrizio. Ciao, ascolta, volevo fare una prova come sto uscendo di radio. Per me la solita del capo, cos'è? Penso. Una bomba. No, è quello lì che stavo facendo una prova. Ascolta, voglio provare i microfoni originali senza toccare la regolazione che avevo fatto, era sempre così, poi non ho regolata il Mickey Game. Provo i microfoni originali e mi dite che differenza trovate, ne volevo fare una prova. Fai, già sono in ascolto io. Ci sono anche gli altri, dai. Ciao Fabrizio! Ciao Fabrizio, sono anche io, se vuoi qualche indicazione strumentale te la posso anche dare di intensità e di altre cose. Vai quando sei pronto. Ecco qua, guarda. 1, 2, 3, 4. Questo è un microfono originale. Questo è un microfono originale, adesso ne provo un altro, ditemi se c'è differenza. Questa è barattolosa e ti manca tutto di impostazione, ti sente poi questa specie di soffio di vento là sotto. E questo invece è un altro microfono, e questo è un microfono originale. Più chiara, non entrati Fabrizio e Gianfranco, come sia. Eugenio da Porto Torres, il di Porto Torres, nonché soprannominato Pitbull. Ci sentiamo, ciao a tutti, ciao anche al mio amico Chihuahua. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao. Ciao G. Mi prendo io, ciao G, fatti sentire quando sei dalle mie parti, dai, che c'è qualche novità. Ciao ciao. Ciao a tutti, buon proseguimento a tutti. Ciao ciao a tutti, ciao. C'è un break. Ciao pomeriggio. Ciao più da questa parte, in compagnia di Roberto Quadrato, Giulio. Eugenio che sei andato via e Fabrizio avanti. Sì, ciao, ben sentito, facciamo entrare a Giulio e poi Gianni Franco per salutare Luca Bricio. Vai giù. Sì, sì, sei lui, da parte mia non c'è problema. Santiago 9 Radio 5, un po' passina come intensità, però ti capisco. Il professore adesso non arriva, continua a non arrivare Luca Bricio. Ciao a tutti e buonasera a tutti. Ciao, sto chiudendo, ciao. Luca Bricio, ma sei in macchina a casa? Non è cambiato niente, sempre quasi 9 di sé. Segnale radio 5 bassa, uguale all'altro segnale, quasi niente cambia, sei tendente a 9 radio, ti ripeto, chiara però non è forte. E ok, aspetta, c'era anche Fabrizio, avanti Fabrizio. Sì, aspetta che mi allontano, magari riprendo dopo, che mi hanno telefonato. E io non c'è problema, allora facciamo riprendere a Franco Binario oppure doppio rumo, avanti Franco. Sì, grazie, intanto saluto Lupo Grigio, qui il segnale è molto basso, come al solito, per me è molto negativo, un segnale di 1 e una radio di 2, dai, tutto qua. saluto anche Fabrizio e Claudio che non ho salutato. Vediamo un po' se Claudio rientra. Claudio? Sì, sono ancora in ascolto. Devo fare qualche prova con Fabrizio, però sono qua. Cosa stavo dicendo? Vabbè, pare che c'hai un alimentatore in più, no, da vendere. Qualcuno di voi c'ha qualche alimentatore buono, però non di quelle cagate. Un alimentatore serio, non mi interessa quanto costa, però un alimentatore serio. Ce l'ho visto quello mio e basta. Non è, ce n'è uno piccolino, ma non so da niente di quelli dettagli, ma ti darà 50 e tu vuoi una cosa grossa. C'era uno cazzo che stava vendendo. Sì, se vuoi fare la portata, tanto non se ne farà niente di quella portata uranio, quello di cosa c'è un 50 ampere grosso. Un 50 ampere, un 40 ampere, un 30 ampere, ma non meno di 30 ampere, capito? Che devo separare le radio e sto caricando tutto sul boxer e alla fine sta iniziando a dare i numeri anche quello, capito? È un pochettino di rosso, infatti lo sento sotto, probabilmente gli stai tirando troppo il collo. È meglio il trasformatore, se lo trovi sotto mano, ma guarda un po' su qualcuno, su quelli marketplace, ce ne sono ogni tanto di queste cose, vedo un po', e lo chiedo, anche lo sai chi lo chiede, quello che mi deve dare quel materiale là. Quando ci dobbiamo sentire quello di Cagliari e richiedo, siccome lui c'ha un po' di tutto, richiedo se c'ha qualche alimentatore grosso. Non ti dimenticare, vabbè, deve fumare il più fretta possibile perché devo separare. No, vabbè, con 430 c'è l'alimentatore suo, il PS50, sul Proxel c'è lo Yaesi, lo sai, c'è l'altro Kenwood, insomma c'è un'altra radio attaccata, quindi voglio iniziare a separare, capito? Tutto qua, va bene. Fabri, vuoi riprendere? Telefono, già riprendi tu, dai, io sono ancora X, semmai se mi chiama Fabrizio poi faccio qualche prova con lui, ok? Ehi, hey, al telefono Fabrizio, avanti nuovo Gianni. Ehi, hey, io. Gianni, scusa un po', ma a te ti arrivava 9,60 questa cosa. Gianni, tu sei perso, riprendi tu, fra. Oh. Avete parlato in due, vabbè, Gianni? Non lo so. Vabbè, Giulio. Chi è che è uscito male? Claudio, chiamami un attimo. Cosa? Chiamami al telefono un attimo. No, Gian, mi richiamare tu perché io devo uscire fuori, sta piovendo. Non c'ho, praticamente ho cambiato il telefono e il tuo numero non ce l'ho più. Vabbè, ti metto su WhatsApp. Mandami un vocale su WhatsApp perché sta piovendo e devo uscire fuori. La vola fa non prendere dentro, capito? Comunque qua era 9,25, a te quanto è che arriva fra quello che non sta uscendo di radio? Adesso non l'ho guardato, ma prima la portante con l'innesco arrivava a 9,30. A me mi passava? Tu sei quasi 9,30, sei sui 9,25. Invece Gianni è 9,35, quindi passava Gianni. Ma Giulio, c'è ancora? Giulio, ci sei? Giulio? Fra, a me mi passava allora. Capo, qua è forte, sì, è forte. Ripeto, passava, sentivo bene solo a doppio rumo, ma forse anche a Luca, perché c'era proprio vicini. Ehi, la testa di turbato, fra. Anche adesso? Un secondo, forse ha sbagliato il tasto, dai. Ecco dove ti dica, boh. Ok, no problem, dai, vediamo che è rimasto qualcuno qua sul canale 10, vediamo se c'è Lupo Grigio, avanti Lupo. Ma sta piovendo? Perché qua non mi accorgo niente, sono all'interno. Sì, qua sto anche avvicinando, leggero. No, qua nulla. Io sono in montagna, frate, qua prima la mella qua. Voi fare nocchi, però. Ehi, portate che faria. Ce ne andiamo a mare, dai. Già, cosa, Franco, quando Claudio si mette a ne afferrare, che magari butta un po' di acqua, te la porta giù a parte tua. Allora, qua è un casino, qui arrivano tutte le acque. Meno male che sono al primo piano. Io visto quelli che sono a piano terra di fronte a me, l'acqua gli entra dentro l'ingresso, E aspetta quelli del centro storico, se ti fa quelli acquattoni, quelli allucinanti, che lo fa due o tre volte all'anno, ma ne vedi le vanno alle cantine. Andiamo via, lui. Forse ho parlato sopra qualcuno io. No, una portante forse ha messo. E come ho mollato, ho sentito c'era un segnale sotto. Vediamo un pochettino, Lupo Grigio, se c'è ancora, avanti Lupo. Adesso ti sia passato 7 di segnale, la radio non è più 5, ti do tra il 3 e il 4. L'alimentatore che c'hai, perché non lo stai usando, invece che la batteria o... Lupo Grigio, interrogativi. Non lo fa parlare. Non ho capito cosa ha detto. L'alimentatore che ti ho dato io non lo stai usando. Ha detto che non lo sta usando già. Ma se no l'alimentatore è 50 ampere. col collo lì non ha più bisogno di batteria. Lui usa mettere la macchina là. Ma cos'è già? Questo era stato il switching o appoggio trasformato? Un pomeriggio, cos'è? Switching o trasformato dell'alimentatore? Ti sto aspettando basso, ripeti, non ho capito quello che hai detto. Sì, adesso ho capito, switching, no, perché c'era Claudio, la stava cercando uno grosso, però ha trasformato della, cioè, almeno un po' tamper effettivi. Ha detto credo però, Quello switching io lo uso, quello lineare da 300 watt, va benissimo. No, non sto dicendo già che non funziona assolutamente, però sono molto delicati. Se vedete c'è un temporale o qualcosa, qualche scarichina, te lo mette in crisi. A parte che sono molto tirati normalmente questi switching, perché ti dicono 20 ampere, sono 20 ampere massimi. Tu li attivi e inizi a crearti dei problemi. Io ti dico sempre, in alta frequenza sempre usare meglio trasformatori, infatti tutte le radio professionali e coso hanno trasformato, parliamo trasmettitori uso continuativo, non di radio normale. Io ce l'ho anche col trasformatore da 35 ampere, molto bello, della Intec, di quelli vecchia era, ma tutto rifatto a nuovo, da me è tutto fatto alla grande. Sì, no, non è che siano migliori, cioè tutto naturalmente dalle costruzioni, perché anche ci sono degli switch che magari anziché tirare troppo il transito lo fanno lavorare a metà potenza. Però la maggior parte di quelli che sono in commercio sono tutte cose tirate al collo per dire che ti do 20 ampere a 15 euro, e tu dici cazzo, 20 ampere per... quindi effettivamente te ne tira fuori 10, 20 di picco, però no, lo stai sovraccaricando. Io dico il trasformatore è eccellente per i sovraccarichi eccetera eccetera, l'unico problema se ti parte il diodo anziché arrivati i famosi 12-13 volte te ne arrivano 20 e bruci la radio, e quello lì c'ha quello di difetto. A me quello che avevo da 50 ampere me l'ha aggiustato un amico e ci ha cambiato un transistor che c'era a cambiare, ma è una resistenza, non un transistor, è andato alla grande, dai, ce l'ho roba di 20 anni, 15 anni, però è andato sempre bene. E poi tutti gli altri sono Proxel, ma sono sempre switching anche quelli lì, non mi hanno mai dato problemi, dico la verità. No, quello che mi ha dato problemi è uno solo, però mi ridava già da quando l'avevo comprato, è proprio in protezione questo alimentatore, e se ci avevi lo sovraccarico è proprio in protezione, mentre invece mettendovi questa resistenza sicuramente era difettosa, l'ho portato a aggiustare anche da un tecnico, niente, non ne ha cavato piedi, ma l'ha aggiustato un amico. Già, tu c'hai come quello che c'ho io, no? Il Boxer 60-55, anch'io ce l'ho una vicina d'anni, va bene, però quando parte quella resistenza non ti dà più gli ampere effettivi, inizia a calare, capito? Ehi, ma a me me l'ha aggiustato con l'amico nostro, me l'ha aggiustato e va alla grande, no? Ce l'ho adesso, mi funziona, lo sto usando adesso con questo apparecchio, va alla grande, capito? Ehi, no, mio, non c'è niente, che voglio abbassarle